America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Living on a jet plane, John Denver, quindi un jet per nuove frontiere, sempre. E dunque noi siamo qui per fare una puntata di solo andata e ho con me ai microfoni di America 24 Fabrizio Arengi Bentivoglio che un jet lo ha preso molti anni fa per venire a New York proprio con un biglietto di solo andata, magari forse allora non ci pensava. Non sapeva che sarebbe stato un biglietto di sola andata, ma poi si è tradotto in una residenza permanente o semipermanente americana. E con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Fabrizio. Buongiorno, buongiorno. Eccoci. Allora, Fabrizio Arengi Bentivoglio, lei a un certo punto arriva in America con un jet. Perché arriva in America? Ma l'America era nei miei pensieri, nei miei desideri quando ero all'università e quindi appena finita sono venuto pensando di rimanerci 2 anni e sono ormai 20, quindi il punto di non ritorno l'ho passato. Ecco, ed è venuto poi per studiare, ma poi cosa ha fatto? Ho fatto un master e è finito il master qui, ho cominciato a lavorare nelle aziende multinazionali farmaceutiche che era un po' il settore di provenienza della mia famiglia. E cioè? Avevamo un'azienda farmaceutica in Italia che abbiamo avuto per moltissimi anni e quindi l'idea era di venire a fare pratica nelle multinazionali e poi tornare in Italia. Quindi un percorso di apprendistato. Qual è il nome dell'azienda che avevate in Italia? Fidia Farmaceutici, che è un'azienda abbastanza conosciuta e storicamente presente in Italia, anche se aveva sedi altrove, e l'idea era proprio quella di fare un training per poi tornare a casa. Ecco, poi invece a casa non c'è tornato e se non sbaglio, a un certo punto questa Fidia l'avete venduta. Molti anni dopo in realtà, perché io ho cominciato a lavorare per le multinazionali con l'idea di starci sempre un paio d'anni e i 2 sono diventati 4 e poi 10 e fino a che nel 2007 abbiamo venduto l'azienda farmaceutica, ma io ero ormai già stabilizzato qua in America. Ecco, però cosa ha fatto? Perché questa è la cosa che mi interessa molto, dovendo dare così un po' di ispirazione a giovani imprenditori che magari dall'Italia stanno pensando di muoversi, di girare il mondo, di cercare opportunità in giro con un biglietto di sola andata che può essere non necessariamente solo per gli Stati Uniti ma anche per altre parti del mondo. Cioè lei ha trasformato, diciamo, come spesso succede proprio in America, quella che era un'attività imprenditoriale, operativa, diretta, in una attività finanziaria. Cioè il capitale è stato realizzato, si è costituita una società finanziaria che, se non sbaglio, si chiama proprio Fidia Invest? Si chiama Fidia Finanziaria. Fidia Finanziaria ed è una SPA italiana. È una SPA di Milano che io gestisco dal 2009, quindi poco dopo la vendita della farmaceutica, e inizialmente era una scatola vuota o quasi, se non con il ricavato della vendita della farmaceutica, e abbiamo iniziato decidendo cosa non fare. Quindi scartando alcuni settori particolari che risultavano essere troppo complicati. Per esempio proprio il farmaceutico da cui venivamo, perché la barriera all'ingresso nel farmaceutico era molto elevata, la dimensione nel settore farmaceutico era chiaramente critica. Allora lei sceglie di restare in America e di usare i proventi di questa vendita per sviluppare delle attività imprenditoriali qui a New York o comunque negli Stati Uniti o magari anche in Italia o magari anche all'estero. Come l'ho impostato? Abbiamo iniziato a investire partendo dalle cose che sapevamo, da quello che conoscevamo. Era il 2008-2009, quindi post Lehman, un mercato ancora molto fragile e incerto, e chiaramente l'esperienza acquisita in 15 anni negli Stati Uniti mi ha permesso di guardare al mercato americano da una prospettiva locale, non da straniero che veniva a investire in America. Abbiamo iniziato a guardare alcuni settori e oggi, a distanza di 5 o 6 anni abbiamo 3 settori industriali dove investiamo, prevalentemente negli Stati Uniti, ma non solo, che sono l'immobiliare, sono i servizi finanziari e sono le energie rinnovabili. Quindi solare, fotovoltaico? Solare, idroelettrico, abbiamo delle aziende in Europa e l'esperienza europea e italiana è quella che ci sta servendo adesso per guardare delle opportunità di investimento negli Stati Uniti. Ecco, ci sono due cose che emergono da questa nostra chiacchierata, così come feedback per chi ci ascolta. La prima è che, beh, certo, lei aveva i capitali di base, però immagino che qui abbia trovato finanziamenti accessibili, abbia trovato dei soci finanziari. Quindi è possibile venire in America e cominciare magari anche da zero e riuscire a costruire qualcosa? Ma secondo me sì, perché questo è un mercato trasparente ed è un mercato efficiente. Le informazioni sono disponibili e l'accesso alle opportunità, che vuol dire capitali, ma non è solo capitali, l'accesso alle opportunità, dicevo, è presente a vari livelli, non è solo per le dimensioni molto elevate. Ecco, l'altro punto, a parte così dare uno spaccato a chi voglia venire qui, l'altro punto è che, e questo a me colpisce molto, in Italia c'è sempre molto sospetto, lei lo sa che probabilmente è uno dei sospetti, dice: ma come, questo prende i capitali e li porta all'estero? C'è sospetto, no? Per la Fiat che investe con la Chrysler. Ecco, io credo che sia importante smitizzare questi luoghi comuni che hanno un po' il paraocchi. Per cui nel venire qui, lei crede che lei in qualche modo porta un valore aggiunto per quello che può succedere in Italia, può essere di ritorno in Italia? Io penso di sì, è vero quello che dice, che c'è un sospetto e questo purtroppo è un po' anche il momento storico. Noi operiamo molto negli Stati Uniti, ma siamo una SPA di Milano, siamo assolutamente un'azienda italiana, la capogruppo è un'azienda italiana. Credo che il mercato dei capitali, così come le opportunità di investimento, siano delle opportunità aperte in un mercato globale e quindi non bisogna pensarle come un investitore italiano che investe in America. Sono dei flussi che funzionano in entrambe le direzioni e vediamo che molti capitali americani, molti fondi di private equity americani in questo periodo stanno guardando di nuovo l'Italia. Perché? Perché ci sono delle opportunità. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che riversi tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di biglietti di sola andata per New York, in questo caso, per investire, per fare l'imprenditore a New York. Dunque, sognando New York, Dream Like New York di Tyrone Wells. So many dreams come and go. We blink our eyes, time flies by, and we don't know. Whatever happened to those childhood years when we thought we could fly? Gotta keep those dreams alive and dream like New York. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.